Thank you. Galatea, Berenice, Francesca, Salome. È un uomo difficile, è un uomo complicato. Non ne ho colpa, non ne ho colpa, son nato per le grandi avventure. Leggerete

Cipria, oro sul naso. Chi è mai vista? Thank you. Giova la vita che ci rodò